sentare non stare seduti. From now on you have to sit on a chair. E da ora in avanti dovete sedere su una sedia. And when you sit on a chair, you must be comfortable. E quando state seduti su una sedia dovete essere comodi. So even though the body feels uncomfortable on the chair, anche se il corpo si sente scomodo sulla sedia, you have to say to yourself, I am comfortable. Dovete dirvi, io sto comodo. Don't move. E non muovete. Grazie. So now it's time to go to bed. Ora è l'ora di andare a letto. So to create a substrate ready for sleep. Per creare un substrato per essere pronti a dormire, you can practice this metta. Potete praticare questa metta. But make it very simple. E in modo molto semplice. So may you be well and happy. Che possa tu essere star bene ed essere felice. To somebody whom you have no problems with. E mandatela verso qualcuno con cui non avete problemi. And if you have nobody who have no problems with, somebody with little problems. E magari non esiste nessuno con cui non avete nessun problema, ma allora qualcuno con cui avete pochi problemi. To them, then to yourself. A loro, poi a voi stessi. And then to all beings. E poi a tutti gli esseri. So you just repeat it with goodwill. E quindi ripetete con benevolenza. And then you fall asleep. E poi vi addormenterete. Or you can put your attention on the breath. Oppure potete portare l'attenzione al respiro. But not to investigate, because this wakes you up, Non per investigare, perché questo risveglia. Just to feel the gentle loveliness of the breath. Solo per sentire la gentile amorevolezza del respiro. Now if that doesn't work, se questo non funziona, and you feel very restless, e vi sentite comunque molto eccitati, so you begin with a very comfortable posture. Cominciate con una posizione molto comoda, and you refuse to move. E rifiutate di muovervi. Every time you move, you reinforce the restlessness. Tutte le volte che vi muovete, rinforzate questa irrequietezza. Draw your attention from the top of the head just down the body, feeling the restlessness. E portate l'attenzione dalla testa giù per tutto il corpo, sentendo questa irrequietezza. And as you do that, you'll see you fall asleep. E mentre fate questo, vedrete che vi verrà sonno. There's no guarantee. Non c'è garanzia. And then a strong determination to wake with the bell. E fate anche una forte determinazione di svegliarsi con la campana. So there's some time if you want to take a bit of the fresh air. E c'è un po' di tempo se volete prendere un po' il fresco. Just allow the beauty of nature to bring that sense of inner joy and peacefulness. Lasciate che la bellezza della natura vi porti un senso di gioia interiore e di pace. Just for this time, all your worries and expectations of life, see, just put them to the side. E per questa volta mettete da parte i problemi e le attese che avete nella vita. You can always write all your worries on a piece of paper. Potete scrivere i vostri le vostre preoccupazioni su un pezzo di carta. And you fold it gently. E fold it. Fold. Piegatelo gentilmente. Put it in your wallet. Mettetelo nel portafoglio. And say to yourself, I will look at this after the weekend. E vi dovete dire che guarderete questo foglietto alla fine del ritiro. So while you're here, you can do nothing about anything. Mentre siete qui, non dovete fare niente riguardo a niente. Ah, allora. May you sleep peacefully. Possiate voi dormire facilmente. Ah.